Eccoci! Tutti convocati di Carlo Genta. Allora, tutti sanno che il martedì è il giorno in cui, il giorno del professore Marino Bartoletti, non ho trovato niente di meglio, lui non ha la Vespa, la bicicletta, però radio, momento di radio verità a tutti i convocati. Questa mattina ho trovato, ho telefonato a Marino Bartoletti, tarda mattinata, lui era non con la Vespa, ma con la bicicletta sulla collina di San Luca. Ciao professore. Bicicletta con la Colnago C59, no? Per essere per essere precisi, perdonami, ma non ho trovato, non mi è venuto niente di meglio musicalmente per introdurre questo raccontino. Ah, è molto bella, guarda, sono passato proprio per Via dei Colli per salire San Luca, salita impegnativa, devo dire, soprattutto per noi persone di una certa età. Allora, infatti, come voto, detto, voto alla salita chiamato... di San Luca, che è un piccolo pezzo di storia del nostro ciclismo. Abitualmente ci si conclude il Giro dell'Emilia, è una salita molto importante. Io da povero vecchio la faccio dalla parte opposta, non naturalmente dal tornante delle Orfanelle, però ti assicuro che quando arrivi in cima vedi la Madonna, non soltanto in senso metaforico, ma anche la Vergine di San Luca, per la verità. Sono soddisfazioni, insomma, e poi dico sempre che certo non bisogna essere un cavallo per parlare di ippica, però insomma quando si parla di sport, quando si parla di ciclismo, beh, avere qualche piccola cognizione di causa ti aiuta per sapere la fatica che fanno gli altri. Le cronache raccontano di un Marino Bartoletti in grandi condizioni, peraltro. Sono onorato di aprire. Le cronache raccontano, le cronache raccontano di un Marino Bartoletti in grandi condizioni, in bicicletta, quasi pronto, forse per Rio, anche se il percorso è complicato. Pare che sia molto duro questo percorso, anche se tutti ci aspettiamo tantissimo da questa gara d'apertura in cui, chi lo sa, potrebbe già arrivare una medaglia. Bisognerebbe veramente vedere nel volo degli uccelli per capire cosa può accadere in questa città dal clima decisamente inospitale, secondo me, almeno per quanto ricordo relativamente ai mondiali di calcio. Non so quanto sarà facile questa gara anche dal punto di vista climatico, credo che sia veramente molto molto complicata. Vediamo il tour che Campioni ci ha lasciato, continuiamo a sognare che Nibali possa essere il favorito, ma è una gara molto dura ed è un pronostico molto duro. Certo, vediamo anche con quanta benzina. 800 24 00 24, tutti convocati ogni giorno in diretta dalle 14 alle 15, poi raddoppio olimpico, tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20 ogni giorno qui su Radio 24. E adesso stiamo parlando con Marino Bartoletti, io già vi invito, 349-238-6666 anche per i vostri messaggi e WhatsApp. Marino, una domanda che volevo farti ieri, insomma, abbiamo debuttato con questo programma olimpico con una domanda facile, banale finché vuoi, ma la tua medaglia del cuore qual è? Ricordi che stai parlando con una persona anziana? Allora, ci ricordo, sono medaglie... che sto parlando con un maestro del giornalismo che di Olimpiadi ne ha vissuta qualcuna. Guarda, questa è la prima a cui non partecipo di persona dal 1972, fai tu i conti. Allora è difficile darti una risposta secca, scegli tu fra medaglie per cui viene svegliato un bambino all'alba, 1956, Ercole Baldini, mondiale di Melbourne. Non dimenticare che Baldini era ed è forlivese come me, è stato per 2 anni il più grande campione del ciclismo che ci sia stato in questo paese e in tutto il mondo. E salì sul podio, ricorderai, con l'inno italiano che non c'era, lo cantarono gli emigranti, una cosa su cui potremmo fare una trasmissione. Prima medaglia che mi ha colpito, forse cambiato la vita, in televisione, Berruti, 200 metri, 1960. Prima medaglia vista dal vivo, bronzo di Mennea nei 200 metri a Monaco, 1972, dietro a Borzov e a Larry Black. Medaglia che mi è rimasta nel cuore, 1980, Mennea, medaglia d'oro a Mosca. E poi tante altre te ne potrei dire. Guarda, l'Italia ha vinto 550 medaglie nelle 27 edizioni delle Olimpiadi, 199 d'oro. Di queste 550 credo di averne viste di persona un centinaio, fai un po' tu. Sì, la mia invece è solo mia, perché è Atene 2004, Jeremy Warner nei 400 metri, non è una medaglia azzurra, 44 secondi netti, primo bianco dopo Victor Martin nell'80, come saprai benissimo. Primo americano non di colore dopo l'Arabi nel 64, era il 23 di agosto del 2004, quella notte nacque mio figlio, volevo chiamarlo Jeremy, un po' ha cambiato idea, Giacomo. Quindi è una cosa del tutto personale e lasciate perdere. Un altro discorso invece che voglio fare con te, Marino, è questo: che ieri abbiamo avuto ospite Antonio Rossi e ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere anche sul mestiere che facciamo, che mi onoro di fare insieme a gente come te. Ha detto questo Antonio Rossi: siamo passati davanti e quindi mi sono gustato gli ultimi 500 metri. A lui a un certo punto dice: bisogna stare attenti agli svedesi, però noi stavamo controllando. E ti dirò, tu dici bisogna essere concentrati quando si fanno le gare olimpiche, no? Io in realtà negli ultimi 100 metri pensavo anche fare tante cose, al podio, alla bandiera, all'inno, ma anche al commento di Galeazzi. Questo mi ha fatto riflettere, Marino. Ha ragione. Guarda, io fui team leader perché ero direttore di Rai Sport nel 1966 alle Olimpiadi di Atlanta e ovviamente dissi delle cose ai miei telecronisti, c'era poco da dire a Galeazzi per la verità. Però l'assioma vale assolutamente. Io più di una volta ho detto e ripetuto che le medaglie le hanno vinte non soltanto gli atleti sul campo, ma anche chi le ha commentate. Pensa a quante meravigliose medaglie ha vinto Galeazzi spingendo, soffiando sui remi delle imbarcazioni, a quante ne ha vinte Rosi nell'atletica, Gelindo, ti ricordi Gelindo? Oppure Cova, ha detto 8 volte. A quante vittorie, non so se olimpiche, certamente mondiali, ha ottenuto De Zan. Proprio nel 96 ricordo una bellissima telecronaca che mi è rimasta nel cuore di Andrea Fusco, che allora esordiva alle Olimpiadi della ginnastica e che urlò: vola Iuri, vola, quando alla mezzanotte di quella meravigliosa notte di Atlanta e all'alba di quella meravigliosa alba italiana, Checchi vinse meritatissimamente la sua prima e unica medaglia d'oro, diventando il signore degli anelli. È verissimo. Certo, no, la storia l'hanno fatta certamente gli atleti, ma l'hanno fatta anche queste telecronache. Lasciami anche dire, scusa se interrompo, non c'entra con le Olimpiadi, perché purtroppo non ha mai potuto raccontare una medaglia d'oro, ma una d'argento sì, il mio grande maestro Aldo Giordani, quando nel 1980 raccontò la medaglia d'argento inaspettata di quella bellissima nazionale di pallacanestro che ci ha detto soltanto la Jugoslavia. Quella la ricordiamo tutti, anch'io. Come tu sai, questo morbo mi contamina tanto che una delle più belle fu quella sempre di Atene, quella notte contro la Lituania, che ci aprì la porta alla finale contro un'imbattibile Argentina di Manu Ginobili. Lì eravamo già Franco Lauro. Era già Franco Lauro, certamente, e era un palazzetto che parlava molto italiano e l'immagine che ho dopo la partita è Pozzecco con l'asciugamano in testa che piange, perché lui ci credeva davvero in quella medaglia. E noi piangiamo d'oro. L'idea che lì siamo rimasti con la pallacanestro alle Olimpiadi. Bravo Marino, ci sanguina il cuore. Vorrei farti sentire, se vuoi dai un voto, se no no, a queste parole di Maradona ieri, la festa dei 90 anni del Napoli, tra gioia, amarezza e cronaca. Maradona. Io in questo momento dove la gente del Napoli ha bisogno di qualcuno che lo sostenga, a io che stiano tranquilli, che io sostengo tutto, io lo tradisco. Vuoi dare un voto, Marino? Caro, gli voglio sinceramente bene. Io ho conosciuto il Maradona più bello, il Maradona che conosceva il valore dell'amicizia, il valore della lealtà nei confronti dei compagni. Poi sappiamo benissimo che è esistito anche un Mr. Hyde che sinceramente ha fatto del male al dottor Jekyll, ma il mio Maradona dottor Jekyll io continuo ad amarlo e credo che le cose al di là, così forse qualche forma di paraculaggine, le ha dette sinceramente col cuore a, a un pubblico che lui ha amato e veramente non ha mai tradito. Sai, parlavamo l'altro giorno della frigidità di Higuaín, sì, certo, ricordo bene, del pubblico del Napoli. E io più volte ho citato quanto hai detto tu, Higuaín è arrivato come un mercenario e se n'è andato come un mercenario, quelle parole me le ricordo bene. Invece Maradona arrivò col cuore in mano salutando i napoletani, ti ricordi, e lanciando, sì, quel pallone sugli spalti per tutta la gente che era venuta ad assistere al suo arrivo a Napoli, e forse a Napoli in qualche modo sarebbe rimasto se le circostanze non l'avessero allontanato, circostanze purtroppo costruite anche della sua, come dire, inadeguatezza a gestire la sua quota di volo, però credo che a Napoli sia rimasto molto molto molto sinceramente affezionato, e credo che sia il giocatore del Napoli a cui Napoli vorrà sempre più bene, quindi mi disarma questa sua affermazione, questa sua dichiarazione d'amore, e resto sul 9 così soltanto per scrupolo, ma potrebbe essere un 10 pieno. Allora, c'è un ascoltatore che vorrebbe condividere un ricordo con te, mi pare. Fausto Dalodi, io vorrei sentirlo subito, 800240024 è il numero verde. Buongiorno Fausto. Buongiorno, mi chiamo Fausto Dalodi, ho 44 anni e diciamo che sono uno dei classici appassionati di calcio che ha imparato il calcio sul Guerin Sportivo, diciamo, dagli primi anni 80 fino a, diciamo, 95, quell'epoca diretto da un signore diretto che conosciamo. Dal signore che conosciamo. Era un giornale che leggevi dalla prima pagina all'ultima e veramente non te ne perdevi una. Il primo Guerin Sportivo che ho comprato era a ridosso dei mondiali di Spagna dell'82. Io mi ricordo ancora che c'era un articolo che si chiamava E luce alle stelle, e c'era una foto del ritratto, cioè di un quadro del Goya, la maglia desnuda, con sui calzettoni della nazionale spagnola. Ecco, ho vissuto momenti di terrore perché ho detto: se mia mamma mi becca che ho comprato un giornale del genere, mi metto in castigo. Però era veramente un gran giornale. Siccome non ho mai avuto l'occasione di fare i complimenti dal vivo, ho colto questa occasione, tutto qui. E non è mai troppo tardi, credo che a Marino faccia piacere. Ma mi commuove, mi raccomando, e lucevano le stelle, no, sì, vabbè, no, Puccini si inalbera. quello che ero anche poco esperto naturalmente. No, io le sono grato per questo ricordo, perché sai Carlo, io scopro di aver fatto cose buone, meno buone nella mia carriera, ma sicuramente l'affetto che nutro nei confronti del Guerin Sportivo e della mia direzione duplice del Guerin Sportivo, vedo che non può cambiare, perché esiste un club di quarantenni o giù di lì, mm-hmm, che ancora adesso ricordano a memoria praticamente tutto quello che facevamo, ed è uno spirito che è rimasto inalterato. Guarda, nel giornalismo nessuno ha mai inventato niente, ma al Guerin Sportivo forse qualcuno ha inventato qualcosa. Eh sì, io ho la tessera, ti dicevo, di quel club. Tu lo sai. Marino, ti chiedo un istante di pazienza, tra poco chiudiamo la nostra chiacchierata e continuerò con gli ascoltatori. 800240024, mentre battono le agenzie, Inter è fatta per l'acquisto di Candreva, operazione da 22 milioni più bonus, visite tra domani e giovedì, quindi questa lunga telenovela pare essere arrivata alla fine con l'arrivo appunto di Candreva in nerazzurro. Traffico. Tutti convocati. Convocati. Privilegio di avere con noi Marino Bartoletti. Certamente noi ricordiamo tutti insieme, non soltanto io e lui, Annalita Sidoti. Tutti insieme la ricordiamo e ci alziamo in piedi, chinando un po' la testa in questo ricordo. Vorrei invece che Marino spiegasse a un ascoltatore che scrive un messaggio che differenza c'è tra mercenario e professionista, visto che abbiamo usato questa parola forte che io ho ripetuto e condiviso. Ho sentito l'altro giorno Auriemma che si è un pochino inalberato, esatto, su questa cosa. Per me non c'è nessuna differenza, assolutamente nessuna differenza, nel senso che comunque non possiamo che accettare il fatto che oggi un giocatore sia un professionista. A me resta ancora la speranza che non tutti i giocatori possano essere mercenari, questo no. Io credo che ci sono dei giocatori che hanno sposato da professionisti e senza essere mercenari le maglie che hanno indossato. Io guarda, abolirei la stupida pratica del bacio delle maglie, perché veramente ci sono delle contraddizioni così forti che alla fine sconfessano anche il fatto che il mercenariato, quello sì, trionfa nel mondo del calcio. Se facciamo il conto delle maglie che ha baciato Ibrahimovic, credo che lo perdiamo completamente, ma anche Higuain ha baciato quella maglia. Ecco, allora lì si vede la differenza tra il mercenario e il professionista. Bruscolotti non se n'è mai andato dal Napoli, eppure ha ricevuto offerte importanti. Mazzola non se n'è mai andato dall'Inter, eppure Boniperti lo voleva alla fine della sua carriera per concludere la Juventus, così come aveva fatto Altafini come dodicesimo uomo. Ecco, allora sono differenze molto sottili che riguardano non il cervello, non il portafogli, ma il cuore. Capito, ascoltatore? Questa è la spiegazione. E bacio sulle maglie che detesto anch'io. Così come detesto, tu prima hai usato la parola paraculaggine, allora lasciamola lì, quest'altra parola, accanto a quella di mercenario, se sei d'accordo. Un'ultima valutazione che ti voglio chiedere, Marino Bartoletti, è su queste parole. Qui andiamo grosso modo sulla cronaca, ma è un discorso che può diventare anche più generico, su queste parole dell'allenatore della Roma, Luciano Spalletti. Abbiamo fatto quasi tutto in maniera corretta. Chiaro che queste tournée poi un po' di fatica la creano dentro il muscolo del ragazzo, ma anche un po' dentro la testa, ma ormai questo è il calcio. Anche qui abbiamo la parola mercenario, quella paraculo, quella riguarda sempre il denaro, tournée in giro per il mondo, non ci si può, non ci si deve lamentare, secondo me, non so come la vedi tu. No, perché poi si arriva a metà campionato in cui non si danno i giocatori alla nazionale perché sono stanchi, esatto, no? Esatto. Oppure si vogliono fare le lunghe soste natalizie perché comunque i giocatori debbono recuperare. Oppure a ottobre già si frigna perché i muscoli sono in qualche modo intossicati, quando le preparazioni delle nostre squadre cominciano a Los Angeles, a Tokyo, a Pechino o nei posti più strani del mondo. Ora è vero che si dovrà pur campare, però secondo me un compromesso fra quello che era un sano ritiro in quota che si faceva tanto tempo fa e questi voli trascontinentali, salvo poi lamentarsi del fatto che in qualche modo lasciano delle scorie, beh, in qualche modo dovremmo trovarlo, sinceramente, almeno che si abbia il buon gusto di non lamentare. Esatto, grazie Marino come sempre, grazie davvero. È un piacere come sempre, solo una cosa, oggi chiamo da Bologna, il 2 agosto è un giorno importante per questa città. Perché il 2 agosto del 1980, proprio quando ero alle Olimpiadi, arrivò una notizia tragica su un evento su cui non si è ancora fatto luce. Invece il 2 agosto del 1998 Marco Pantani vinceva il suo primo e unico Giro di Francia, fu il momento più alto, ma purtroppo anche di non ritorno, di un campione che per quanto mi riguarda ho sempre amato. E io anche, grazie Marino. A dopo. Ciao Marino Bartoletti. 800240024, abbiamo introdotto, abbiamo chiacchierato di diversi argomenti, molti altri li potete anche inventare voi, mi farebbe piacere. Vito, buongiorno. Anzi, no, aspetti Vito, precedenza alle signore. Silvana, buongiorno. Eccomi qua. Dica. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Io sono interista, ma sto benedetti tardi. A sto punto lui non vorrà stare all'Inter, perché se lui rimane all'Inter poi va a casa e trova la moglie, e io lo so che come moglie tante volte poi esageriamo e diventiamo delle rompi, è meglio che vada al Napoli. Aver gente scontenta non paga. Meglio che faccia quello che dice la signora, lei dice. Magari per il quieto vivere qualche volta paga. Qualche volta paga, sarebbe meglio non farla rivestire quel ruolo di agente, anche se è dimostrata molto scaltra secondo me in questa trattativa, che Silvana a me pare volta ad ottenere più denaro, argomento di cui parlavamo anche prima, con un nuovo adeguamento del contratto da parte dell'Inter. È chiaro che lei sarà interista, Icardi è un eccellente centravanti ed è uno che vede la porta a 23 anni, quindi a pieno titolo può far parte di questo nuovo corso cinese ancora un po' fumoso, però se l'offerta, come si legge, è 70 milioni, allora a quel punto vale la pena pensarci. Poi ieri si era diffusa anche la notizia di un interessamento dell'Inter per Cavani, smentita da più parti. C'è questo ragazzino brasiliano Gabigol che a 19 anni pare fortissimo, ma sui 19 anni brasiliani io, nonostante quello che ha già fatto, ci andrei un attimo tranquillo. Io credo che insomma 70 milioni di euro per Icardi, anche i nuovi proprietari cinesi magari potrebbero pensarci, no? Hanno ragione, lo lasciano andare, voi mi avete dato un attimo fa la notizia che Candreva sarà dell'Inter. Candreva è dell'Inter, lo batto in agenzia, l'affare è fatto per 22 milioni più bonus. Ecco, io leggevo stamattina che sono interessati a Zaza. No, vero, carità, l'ho letto anch'io. Quello, mi prenderò un anno sabbatico dall'Inter. Perché Zaza non le piace? No, proprio no. A pelle, niente, per carità, ma beh, a pelle con, così. No, ma sa, nonostante i tempi stringano, anche se manca, se il mercato chiude con la fine di questo mese. Poi bisogna trovarne un altro, se va via Icardi bisogna trovarne un altro che comunque risponda a determinate caratteristiche, che accontenti un Mancini ancora un po' nervoso. Silvana, io la ringrazio, torni a trovarci quando vuole, anche la sera, perché ricordo, oltre all'appuntamento con Meridiano, che non mancherà mai in diretta per tutta l'estate, invece che chiudere alle 15.30, chiuderemo alle 15 per rifiatare, per poi andare in onda ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 18 alle 20, per raccontarvi tutto quanto sulle Olimpiadi e dintorni, non solo gare, non solo record primati e medaglie, ma tutto quello che sta intorno a questa Olimpiade di Rio, aspetti piccanti compresi. Vito, ho ceduto la parola a Silvana, spero non si sia offeso. Buongiorno a tutti, buongiorno, complimenti a tutti per il programma. E io sono un tifoso milanista molto deluso. Sì, posso capire. Sì, posso capire. Innanzitutto, cioè, volevo capire adesso, visto che siamo al 2 agosto, intanto c'è la trattativa che continua in questa fase di stallo. Tra 20 giorni inizia il campionato. E con questa squadra non si va da nessuna parte, penso. Ma le condizioni le conosciamo. Innanzitutto questa trattativa con gli imprenditori cinesi sembra essersi in qualche modo arenata da qualche parte lungo il tragitto. Sappiamo bene come Berlusconi non abbia alcuna intenzione di fare quello che ha fatto l'anno scorso, cioè mettere sul tavolo 100 milioni contando una conclusione di una trattativa che pure poi si era arenata quella con Mr. B e che fa ormai parte della storia più che della cronaca, storia un po' mitologica e borderline. Però le condizioni relative al Milan sono queste: non ci sono soldi per il mercato, se non parte qualcuno. Il Milan non ha tantissimi giocatori monetizzabili, ovviamente si parla di Bacca, che ha rifiutato il West Ham, e di grandi offerte per questo eccellente giocatore non ce ne sono. Nei giorni scorsi si è tornati a parlare di De Sciglio, reduce da uno splendido europeo, però non... Donnarumma mi sembra ancora molto presto, e sarebbe anche sbagliato comunque da ogni punto di vista cedere un portiere così giovane e di cui devi ancora scoprire i margini di miglioramento. Quindi il Milan è tornato alle vecchie pratiche del mercato dei parametri zero, grosso modo. Sappiamo bene che anche se si chiudesse domani, cosa impossibile, la trattativa con i cinesi, perché ripeto, da qualche parte sembra essersi incagliata, i denari promessi non arriverebbero in tempo per questo mercato. Dunque, secondo me, un unico aspetto positivo, un unico piccolo raggio di luce può essere quello di credere in Montella, che penso possa dare al Milan, se non dal punto di vista degli interpreti, almeno dal punto di vista del gioco, della capacità di stare in campo, qualcosa di nuovo e di diverso rispetto al passato. Questo a piccola consolazione dei milanisti, che giustamente sono un po' depressi come la loro deprimente squadra. Raffaele da Bari, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, grazie per la convocazione e grazie per l'invito che avete fatto al dottor Marino Bartoletti. Anch'io sono cresciuto a pane e guerin sportivo da cinquantenne. Abbiamo l'onore di averlo spesso come ospite il martedì. Insomma, di averlo... un equilibrio pazzesco, cioè, sembra non vero a volte quando fa delle affermazioni. Ed è stato bello anche sentire la voce femminile di Ivana sull'argomento calcio. Silvana, perdonatemi. Niente, io volevo fare una considerazione su Higuain. Premetto, sono juventino, ma non avrei speso 90 milioni per Higuain. Ma io penso nel momento in cui De Laurentiis, la società, mette la clausola rescissoria, così si chiama, no? È in preventivo che il giocatore possa essere venduto a chi la paga. Sì. Diversamente, se ne vuole fare una bandiera o se ne vuole fare un totem, non la mette la clausola, lo dichiara incedibile e a quel punto, diciamo, poi ognuno si adegua. Sì. D'altronde poi io sempre da juventino. L'anno scorso sono partiti Tevez, Pirlo, è partito Vidal, quest'anno partirà, è partito già Pogba, ma non ne stiamo facendo un dramma, ragazzi, il calcio è questo, è soldi, punto. Ma io continuo a pensare, Raffaele, che allora, quanto alla clausola rescissoria lei ha ragione, nel senso che si attacca al giocatore un cartellino del prezzo, se uno va lì e lo paga, il giocatore se lo porta a casa, quindi il senso è questo. Però non so se è d'accordo, no? La partenza di Pogba, per la partenza di Pogba, nonostante non ci fosse in questo caso una clausola recessoria, sono soldi ai quali non si può dire di no. Sarebbe sbagliato dire di no anche dal punto di vista del mercato. Io comunque continuo a vedere una Juventus più forte rispetto al passato. Ora serve un centrocampista barra due, arriveranno, gente già pronta per vincere, si fanno i nomi, li conoscete, li leggete, è inutile ricordarli, da Witzel a tutti gli altri, sono comunque giocatori di altissimo livello. Sappiamo che Marchisio rientrerà un po' più tardi del previsto, cioè a dicembre, quindi magari di centrocampisti ne servono un paio. Non dimentichiamo che è arrivato Pjanic, che è un giocatore che a me piace moltissimo e che è in grado di, non è Pogba, però è in grado di dare tanto alla Juventus ed è anche molto giovane. Sono curioso di vedere Piazza, che non è esattamente un centrocampista, però penso possa non far rimpiangere l'altro assente rispetto all'anno scorso, che è Quadrado. Dunque vedo una Juventus molto più forte rispetto a quella che ha vinto lo scudetto l'anno scorso e tutti quelli precedenti. Gianni, buongiorno. Buongiorno Carlo. Mi dica. Mi spiace che non ci sia più Don Marino. No, volevo chiedere, siccome io di nuovo con noi, ho avuto occasione di vedere in pista allo stadio Martelli, che allora c'era il velodromo, sì, Antonio Maspes, Bianchetto, Beghetto, anche e volevo sapere se questi personaggi, che allora erano veramente in gamba, hanno partecipato a qualche Olimpiade. In particolare Antonio Maspes, questa è una cosa. Sì. Poi l'altra, ci si lamenta perché non ci sono più italiani giovani che giocano a calcio. Io abito vicino allo stadio e mi ricordo da ragazzino, tornavo a casa da scuola, mangiavo in 5 minuti, scendevo subito perché altrimenti non trovavo posto, perché in fianco allo stadio ci sono 3 campi da calcio con poi relativi spazi. Lei si sta rifacendo a quella cultura dell'oratorio, anche se magari non era un oratorio, che è andata persa. I tempi sono diversi, ci sono ancora diversi ragazzini che comunque giocano a calcio, però spesso gli fanno passare la voglia, oppure arrivano ad un certo livello che gli fanno passare la voglia magari allenatori incapaci o incompetenti o non sufficientemente all'avanguardia per insegnare qualcosa, gli fanno passare la voglia i genitori che cominciano a rompergli le scatole e a rompere le scatole agli allenatori. Io credo che tutto questo sia venuto dopo quella cultura oratorio in cui la mamma non arrivava, tu tornavi a casa quando c'era buio, punto e basta, non venivano a rompere le scatole all'allenatore per farti giocare o per farti giocare magari in un certo ruolo. Per quanto riguarda pochi giovani che giocano in Italia, pochi giovani nelle squadre di Serie A, io continuo ad andare un po' controcorrente da questo punto di vista e a pensare che al di là al massimo livello di professionismo possibile, poi possiamo chiamarlo di mercenariato possibile, debbano arrivare quelli bravi a prezzo di mercato. Se sono italiani tanto meglio, se bisogna cercarli all'interno della comunità europea rispettando le regole, al di fuori della comunità europea, e allora è interesse dei club fare così. 800 24 00 24, borsa, torniamo. Il calcio è talmente breve, è talmente breve, poi è, secondo me è come i fulmini, no? Un attimo cambia tutto. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Arrivarono con il vento di carnevale, Vian e sua figlia Anouk, che a 6 anni il mondo aveva ancora una luce speciale. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata, di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB+. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati. Dunque, io dovevo una risposta all'ascoltatore di prima, me lo confesso candidamente, non ero preparato, però Marino Bartoletti, come numero tutelare, ci segue sempre e mi manda la risposta via WhatsApp, anche altro momento di Radio Verità. Allora, Bianchetto e Beghetto, oro nel tandem a Roma, Bianchetto anche a Tokyo, Maspes grande soltanto da professionista. Così completo la risposta all'ascoltatore precedente con la parte che per mia pura ignoranza mi mancava. Alice, buongiorno. Alice, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Anche buon pomeriggio, visto che manca mezza alle 3. Sì, buongiorno, buon pomeriggio. E dalle 18 possiamo cominciare a dire buonasera per tutti i convocati olimpico. Esatto, giusto. Niente, semplicemente sono una ragazza di 26 anni di Verona, la bellissima città dell'amore, sì, che dice a un pubblico forse molto vasto che Pelé in Veneto, quel figo, e ha sbagliato a far rigore, anche se era figo. O no, che chi? Significa in italiano, significa era un bel ragazzo veramente, però in quel momento ha sbagliato rigore, sì. E lei non sa in ospedale magari quei poveretti che non sanno che ci sono i mondiali o gli europei, perché magari a volte poco cambia, i che parte i punti, si dice in Veneto, i che parte i punti a quelli che sì. E sa, Pelé ha sbagliato rigore, come l'ha sbagliato Zaza, come l'ha sbagliato Bonucci che prima l'aveva segnato. Un po' di punti sono partiti, Alice, lì. E Pelé adesso è andato a giocare dall'altra parte del mondo, come saprà, in Cina, per una montagna di denaro. Difficilmente lo rivedremo in nazionale. È certamente un buon giocatore, era certamente funzionale al gioco di questa squadra. Non scende secondo me sotto la sufficienza nel suo europeo per quel rigore fallito. Ha giocato un buon europeo facendo quello che doveva fare, compresi un paio di gol importanti, però noi adesso ci ricordiamo e ci ricorderemo di quel rigore sbagliato. Patrizio, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io volevo introdurre un po' un discorso che a volte nel calcio sembra sempre c'è sempre la teoria di voler fare il contrario di quello che sembra ovvio. Vi faccio un esempio: io sono un tifoso milanista. Sì. Il Milan quest'anno poteva scegliere di prendere un allenatore molto più facile, l'allenatore del Genoa, Gasperini, lei dice. Sì, Gasperini, che negli anni precedenti, quando era con Preziosi, ha fatto dei lavori straordinari con Niang, con Bertolacci, Kuczka, cioè hanno reso al massimo. Suso. Prendere lui Suso, e metterlo al Milan era una cosa semplicissima. 5-6 giocatori, Suso che sembrava un bidone, era un fenomeno con Gasperini. Quindi perché non prendere Gasperini? Il Genoa, se non ricordo male, nel girone di ritorno è una delle quarta classificata per punti fatti in campionato nel girone di ritorno. Io una risposta non ce l'ho. Perché non prendere Gasperini? Sono d'accordo però sul fatto, pienamente d'accordo sul fatto, che Gasperini è un allenatore molto sottovalutato, che al Genoa ha fatto un lavoro splendido, non solo per quanto riguarda i risultati della squadra, ma anche sul lancio di singoli giocatori, e lei ne ha citati solo sono una parte, perché Pavoletti ad esempio è esploso quest'anno con Gasperini, è un allenatore cui hanno sempre smontato la squadra per ragioni di mercato, e lui da eccellente artigiano è riuscito a rimontarla e comunque a far brillare del talento che puntualmente a fine stagione veniva per ragioni di bilancio monetizzato. Continuo a pensare che non so quanto pesi quella sua rapidissima esperienza all'Inter, fallimentare perché venne mandato via, non era un allenatore scelto da Moratti, era un allenatore scelto da altre parti della società, segnatamente da Marco Branca, non è mai entrato nella grazia di Moratti, è stato prontamente licenziato. Non so quanto tutto questo possa pesare, ma io continuo a considerarlo uno dei migliori allenatori italiani. Allora andiamo per un attimo adesso facciamo un passo indietro a ieri sera al San Paolo di Napoli. Riportiamo le filosofie in cantina con le religioni alla PlayStation 2. Scelta mia, mi piace qua, mi piace Napoli, mi piace questo popolo, mi trovo bene, questo è più importante. Così sia. Abbiamo perso un grande giocatore, però noi dobbiamo guardare avanti, ci aspetta campionato e Champions League. Io in questo momento, dove la gente del Napoli ha bisogno di qualcuno che lo sostenga, io che stiano tranquilli, che io sostengo tutto, io lo tradisco. Fukushima, Nagasaki, ormai è fatta, ragazzi. Adesso pensiamo in fare una buona squadra, una bella squadra per la gente, e Higuain che faccia il meglio dovunque vada. Ormai è finita. È finita con Higuain, ma con Maradona non sarà mai finita. Mai finita. Questi erano Hamsik, capitano di oggi, e ovviamente il videomessaggio, parla, abbiamo già sentito, di Diego Armando Maradona. Questa festa dei 90 anni del Napoli, era uno degli ospiti d'onore, un ex giocatore come Vincenzo Montefusco. Ciao Vincenzo, grazie. Buongiorno ciao. A tutti. Che aria hai respirato ieri sera a San Paolo? Ma guardi, per il fatto che eravamo lì parecchi di noi, una bella aria, diciamo, però l'aria quella lì che valeva non c'era, nel senso che si vedeva che c'era un popolo un pochino depresso per il fatto che il Napoli non è al completo, la vicenda del Higuain, non c'era un sostituto all'altezza, e chiaramente, ed è stato un bene anche la mossa della società di far entrare la gente gratis, hanno capito che non potevano pretendere. Certo. Niente di che, allora c'è stato un po' di gente, però diciamo che si capiva che nell'aria che c'era qualcosa che non andava, insomma. Qual è la tua posizione a proposito di Higuain e di quello che alcuni chiamano tradimento, altri chiamano affare milionario, altri chiamano frutto della globalizzazione anche calcistica? La tua posizione qual è? Ma guardi, io diciamo, per quello che è successo hanno sbagliato tutti e due, però io sono più con Higuain, perché lui in due occasioni, a gennaio e a giugno, prima di andare in Sud America, ha avvisato la società che voleva una squadra con qualche calciatore importante, perché quando si arriva a quell'età si vuole vincere qualcosa, perché sennò il Napoli, che sta facendo un ottimo lavoro, però non vince mai niente. Allora lui, da quello che so io, che diciamo, ha parlato con la società, ha parlato dicendo vediamo di prendere quei due o tre elementi, già a gennaio voleva due elementi che potessero rinforzare la squadra, poi è stato preso un ragazzo che ancora non si è capito nel Napoli, che l'hanno preso, che è bravo, perché io lo conosco, è un buon giocatore, Grassi, Reggini, insomma, che è un giocatore così. Allora lui già lì è rimasto un po' male, perché ha capito che eravamo primi in classifica. Poi dopo fine campionato, dopo tutto quello che ha fatto, pare che lui con la famiglia abbia parlato con la società, dicendo adesso è il momento di questa squadra di non smantellarla e fare qualcosa di buono. Allora se le cose, almeno quelle che so io, sono così, io sono con Higuain, perché così lui aveva anche un atteggiamento per tutelare il popolo napoletano, cioè quando tutti quanti noi di una certa età diciamo speriamo che il presidente faccia una squadra forte che possa vincere qualcosa, specialmente per noi più vecchietti. Sì, per chiudere Vincenzo, può essere, adesso si parla di Icardi, si parla di questa super offerta da 70 milioni, certamente a Napoli non mancano i soldi. Non so se se Napoli così com'è possa bastare, ma temo di no, nonostante comunque qualche arrivo. Sarebbe Icardi l'uomo in grado anche di accendere l'entusiasmo di Napoli? No, l'entusiasmo sicuramente, perché Icardi io lo giudico un po' un calciatore. Il problema è un altro, quello che da capire, perché Icardi ogni anno crea dei problemi a livello poi di ambiente dove lavora. Cioè, mi pare che sia un ragazzo anche lui un pochino turbolento, dove bisogna guidarlo bene. Napoli è una città che è la città giusta per gli argentini, però non andare sopra le righe, perché poi il napoletano si protegge, però poi quando vede qualcuno che esagera magari si sta anche addosso. Insomma, il calciatore va bene, ma bisogna capire perché. Prima cosa, io penso che l'Inter difficilmente, è come se Napoli vendeva Higuaín, diciamo normalmente non c'era la clausola, cioè la squadra come l'Inter se toglie Icardi vuol dire che non ha più velleità a fare niente. Non so se è un'operazione, se si fa. So che la società ha offerto tantissimi soldi, però bisogna capire sempre se tutte queste voci sono vere o non sono vere. Certo, è una cifra enorme. Qualcuno si domanda pure, ma a questo punto qua, rispettando l'età, che sono 5-6 anni di differenza, però Higuaín andava sul sicuro e con lui non lo sai, cioè valeva la pena di fare se si fa l'operazione Icardi, spendere tutto il capitale che hai, perché dai ingaggio e cose. Vabbè, l'ingaggio lo dava anche all'altro, diciamo. È una bella cifra, 60-70 milioni. È una bella cifra altro che. È una bella cifra altro che. Grazie Vincenzo. Grazie, grazie a Vincenzo Montefusco. Non penso che Milik possa essere, nonostante gli applausi ricevuti ieri sera, possa essere davvero insieme a Gabbiadini, ovviamente Insigne resta, però quell'attacco e quella squadra rimangono al momento incomplete. Siamo al 2 di agosto. Traffico. Un bacione grande al presidente e un bacione grande a tutti i napoletani. Tutti convocati. Convocati. Dunque, intanto ci sono notizie, si battono notizie secondo cui non propriamente rassicuranti sul futuro, sulla cessione del Milan, perché in Cina un portale piuttosto accreditato, donkeyd.com, dice che la trattativa sarebbe saltata, quindi sarebbe saltata la cessione del club rossonero. Il consorzio di investitori rappresentato dall'advisor Galeatotto avrebbe abbandonato la trattativa con Silvio Berlusconi e la Fininvest, un'ipotesi che finora non era stata ventilata almeno in Cina, mentre da noi, a causa dei continui slittamenti degli ultimi giorni, erano già aumentate le perplessità. Ancora nulla di ufficiale, si aspettano conferme, ma dalla Cina sono pessimisti. Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Volevo esprimere la mia opinione sul discorso mercenario e professionista. Secondo me è un discorso legato a una visione un po' romantica del calcio, meglio pre-diritti televisivi. Perché adesso come adesso, secondo me, un Gigi Riva sarebbe andato via da Cagliari con la potenza che poteva avere una squadra come il Barcellona, la Juventus, la Roma, potevano essere prelevati senza appunto dargli il mercenario o cose del genere. E poi un'altra cosa, secondo me Higuaín più che un mercenario è un professionista. Io le faccio una domanda: è più furbo lui che va alla Juve a cercare di vincere, o Totti che è rimasto lì 20 anni senza vincere nulla? Secondo me, Davide, no, ma secondo me il suo intervento intelligente mi pare si sia risposto un po' da solo, perché Totti comunque gioca ancora e ha fatto parte dell'epoca dei diritti televisivi, come ad esempio lo stesso Paolo Maldini. Lì si tratta di scelte individuali, di scelte personali. Non so a quanti denari possa aver rinunciato Totti saltando le trattative, declinando le offerte che gli sono arrivate da quella ormai famosa del Real Madrid in giù o in su. Sono scelte. Io non mi sento di muovere critiche nei confronti di giocatori che comunque sono professionisti, che comunque vanno altrove per guadagnare più soldi, in alcuni casi molti più soldi, come è il caso di Higuaín certamente, ma soprattutto di Pogba, denari che qui non avrebbero potuto prendere, e poi possiamo discutere a proposito dei baci alle magliette, come si faceva prima, e di tutta questa roba qui. Insomma, è chiaro che Higuain per Napoli, che ha bisogno di simboli, che vive il calcio nella maniera che conosciamo, era qualcosa di più di un giocatore, probabilmente a torto, no? Per i tifosi napoletani. Allora abbiamo un ospite che voglio introdurre con questo, poi vi spiego perché. Un omaggio a Paola Avanti della Gazzetta dello Sport, che cura il seguitissimo sito, il seguitissimo blog In The Box sul sito della Gazzetta, e si definisce malato di Bruce Springsteen e di football inglese. Sbaglio? Ebbene sì, grazie, buongiorno a tutti. Ciao, Paolo. E grazie commosso per questa sigla. era vista la passione per Bruce Springsteen, che peraltro condivido, insomma, andiamo. Partiamo così, prima di sentire un'altra musica, che è quella dell'ennesimo allenatore italiano che arriva in Inghilterra, non in una squadra di primissimo livello, ma è appunto Walter Zenga e il suo che esibisce subito il suo inglese. Wolf are the biggest team for us in Italy, in the our fantasy, because for us the football is a passion, lovely, and this club is all the times was in our mind. Either if they, for example, they play only one time against Italian clubs, only one time in Europa competition, but still a club that is a very very important club. Dunque, questo era Zenga che racconta che il suo nuovo club, il Wolverhampton, è in pratica il club inglese più amato dagli italiani. Non so da dove gli arrivi questa informazione. Si è fatto prendere un po' troppo dall'entusiasmo, direi, però diciamo che va a allenare un club che negli anni 50 veniva definita la squadra più forte del mondo, quindi insomma non è andato troppo lontano da definizione. Si aggiunge alla pattuglia sempre più nutrita di italiani che vanno a allenare in Inghilterra, questa è una cosa bella. E tra l'altro adesso c'è la voce, anche più di una voce, di Zola, che potrebbe allenare dal City, quindi diciamo che stiamo colonizzando il calcio inglese. Bravo, stiamo colonizzando il calcio inglese. Peraltro voto all'inglese di Zenga più che sufficiente, ne ho sentiti di peggio. Zenga che peraltro è uno abituato, cioè, tra i nostri allenatori è uno di quelli che davvero ha girato il mondo, ha vissuto diverse esperienze, e questo secondo me è sempre un titolo di merito. Assolutamente sì, è uno abituato a girare il mondo, abituato ad ambientarsi a inserirsi in qualunque ambiente. La Championship tra l'altro è una splendida palestra, un campionato divertentissimo, equilibrato, comunque ambizioso, comunque ricco. Lo fa appunto in un club con una grande tradizione, sebbene decaduto, con una proprietà cinese che vuole investire molto, quindi secondo me ha fatto la scelta giusta, poi lo giudicheremo tra qualche mese. Sì. Senti, come vedi i primi giorni di Conte al Chelsea? Innanzitutto, è contento della squadra o sta puntando i piedi per avere qualcos'altro? E poi tu come lo vedi, come nel suo primo approccio con il calcio britannico e con la realtà britannica del calcio? Allora, mi dice difficile vedere male Conte, perché Conte credo che riesca veramente a fare bene dovunque vada ad allenare, l'ha dimostrato con la nazionale, che ha riuscito a dare un gioco alla nazionale mediocre come livello qualitativo medio, e con tutte le difficoltà di quando allena la nazionale con i giocatori che li vedi raramente. E secondo me ha la tempra, il carattere e l'esperienza per fare bene anche al Chelsea, anche se dovrà adattarsi a un calcio meno enfatico e meno e meno alla Conte, insomma, il sì, calcio inglese. Sai qual è la perplessità? È che è sottile, però Conte, sì, proprio per questo, ha bisogno di lavorare dentro la testa dei giocatori in maniera molto raffinata per ottenere i risultati che ottiene. E la mia domanda è se riuscirà, ma anche per banali ragioni di lingua e di cultura anche calcistica differente, se riuscirà ad aprire questo varco che è un po' il suo segreto nella Juventus, nella nazionale. Però è un lavoro molto raffinato quello che fa dal punto di vista anche mentale Antonio Conte. È un lavoro raffinato che adesso lo andrà a fare in un ambiente dove finita la partita si dimentica di polemiche, discussioni, sconfitta, vittoria fino alla partita successiva. L'ambiente, nonostante i soldi, nonostante la ricchezza, nonostante le ambizioni, è un ambiente che resta più rilassato rispetto a quello del calcio italiano. Sì. E questa potrebbe essere la sua difficoltà. È vero che è un club internazionalissimo, abituato a vincere, molto ambizioso, e quindi questo compensa queste lacune, diciamo, culturali, lacune dal punto di vista di Conte, intendo. Certo, lui ha bisogno di pressione, ha bisogno di non allentare la tensione, no, mai, soprattutto dopo le sconfitte. Paolo, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Paolo Avanti, Gazzetta dello Sport. Massimiliano da Bologna, riusciamo a parlare anche se per poco, abbiamo 50 secondi, dica. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Senti, io sono tifoso di Bologna, del Bologna, per cui lontano da queste dinamiche, da alta classifica, però mi faccio una domanda, ma a tolta la Juventus, cioè, se è questo quello che possiamo offrire, cioè le prime 4-5 grosse squadre nazionali che sono messe male, cioè veramente ci dobbiamo ridurre a vedere il campionato francese, inglese, spagnolo, oddio, campionato, per vedere un signor, minimo di spettacolo. Il campionato francese non mi sembra proprio l'esempio più azzeccato, perché anche lì, tolto il Paris Saint-Germain, le altre arrivano a 40 punti di distacco. No, io credo che sia un momento, e il Bologna tra l'altro lo sta dimostrando, ha progetti serissimi ed è una società in costruzione. Adesso servono competenza e fantasia. Vediamo chi dei nostri dirigenti riuscirà ad abbinare bene queste due risorse con i quattrini che ha a disposizione. Ragazzi, chiudiamo qui ringraziando Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo questa sera per andare a fare un salto alle Olimpiadi, come faremo tutte le sere dalle 18 alle 20. A dopo. See you at Vicarage Road. Thank you very much.